sono pronti per ascoltare quello che Dio ha da dirci questa mattina? Amen. Qualcuno in più si è aggiunto. Quando apriamo la parola di Dio, quando apriamo la Bibbia, noi stiamo ascoltando la voce di Dio. Quindi io so che voi non siete venuti qui per ascoltare la mia voce, e questo è un bene. Io so che siete venuti qui per ascoltare la voce di Dio. E Dio parla, e lo fa ogni qualvolta noi apriamo la sua parola. Ed è quello che vogliamo fare, aprendo la sua parola in Giacomo, al capitolo 1, dal versetto 21, versetto 21 al 25. Leggiamo quello che Dio ha da dirci questa mattina. Dio dice: perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può portare, che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Ripetiamo quest'ultima frase. Egli, ancora una volta, egli sarà felice nel suo operare. Dio vuole felicità per la nostra vita. Dio vuole che noi operiamo, avanziamo, camminiamo nella nostra vita e con la possibilità di guardarci indietro ed essere felici. Essere felici. E cantavamo oggi che questa frase, vediamo se me la ricordo, che è un ringraziamento per dove mi trovo. Grazie per dove sto. Aiutatemi. Com'è che dice Fabio il brano che abbiamo cantato oggi? Che dichiara, no? Che c'è questa... C'è Fabio, se n'è andato Fabio. Perché? Perché ho te... Ah, sì, la so. Perché ho te, Fabio, dimmi. Perché ho te sono dove vorrei. Signore voleva recuperare Fabio che si era perso nei meandri dei corridoi e voleva che ascoltasse queste parole. Dio ci vuole portare in una condizione di benessere, Dio ci vuole portare in una condizione di felicità. Dio vuole portarci a poter confessare le parole di questo canto, non illudendo noi stessi, ma proprio perché abbiamo consapevolezza. Sono dove vorrei, grazie a te sono dove vorrei, perché sono da te guidato, perché sono da te protetto, perché sono con te, perché sei con me ogni giorno. Quanti lo possono dire? Egli sarà felice nel suo operare. Io partirei da questa comprensione. Dio vuole il meglio per te e per me. È una bugia satanica quella che dice che Dio vuole ridurti ad una vita di sacrifici, bigotta, rinchiusa, inscatolata, dove tutto ciò che hai da vivere è sacrificio, pena e dolore. Non è questo il nostro Dio. Il nostro Dio è creatore e sì, Lui dà delle leggi, Lui dà dei comandamenti, Lui ci dice di osservare la legge perfetta, la legge della libertà, ma lo vuole per il nostro bene, non per il nostro male. Amen. E noi siamo qui perché vogliamo questo e dobbiamo comprendere l'importanza di non limitarci ad ascoltare la parola ma a metterla in pratica. Sono due verbi che vanno di pari passo. Ascoltare la parola è fondamentale, perché ascoltare la parola significa mettersi in condizione di cominciare quell'azione vigorosa e positiva per la nostra vita che ci spinge verso territori di conquista e di benedizione. Il vostro ascoltare in questo momento è già un spingervi verso verso le benedizioni che Dio ha per ciascuno di noi, ma non basta ascoltare, all'ascolto deve essere accompagnato il mettere in pratica, ascoltare e mettere in pratica, ascoltare e mettere in pratica, perché Dio condanna l'ipocrisia. E l'ipocrisia sapete che cos'è? È la mancanza di unità tra le parole e i fatti. Quando c'è una rottura tra parole e fatti, c'è ipocrisia. E ascoltatemi bene, figli di credenti, perché sono figlio di credenti, viviamo troppo spesso in questa trappola perché nati in chiesa, cresciuti in chiesa, domenica in chiesa, domenica dopo domenica in chiesa, incontro dopo incontro in chiesa, e ascolti, ascolti, ascolti, ascolti, ascolti, e leggi magari anche la Bibbia, e leggi, leggi, leggi, leggi, ascolti, ascolti, ascolti, ma se non c'è un mettere in pratica, si rimane fermi nello stesso posto. O meglio, si ha l'illusione di camminare, ma si è fermi lì. E Giacomo dice, illudendo voi stessi, condanna il vivere una vita dove ascoltiamo ma non mettiamo in pratica. Infatti dice, mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Se c'è solo l'azione dell'ascolto, sebbene l'ascolto è molto importante, questo non ci porterà da nessuna parte. Per illustrarvelo bene, riporto sul palco una pagaia che tempo fa tirai già fuori da queste tende, perché questa è un'illustrazione che spero possa rimanere bella impiantata in voi. Infatti nel momento in cui l'ho tirata fuori, chi c'era in quella predica si ricorda che cosa abbiamo detto della pagaia. La pagaia è questo remo particolare che si usa nelle canoe o nei kayak, ed è uno strumento che ci permette di progredire, di andare avanti nell'acqua. Però l'azione necessaria per poter andare avanti col kayak o la canoa è una duplice azione. Devi spingere da un lato, ascoltare la parola, e poi devi spingere dall'altro lato, metterla in pratica. Se ascolti, ascolti, ascolti, ascolti, ti muovi? Ti muovi, ti muovi, ma disegni cerchi nell'acqua, vai attorno, non progredisci. E a volte noi possiamo ritrovarci in un territorio dove sembra tutto sempre lo stesso, dove le cose non cambiano, dove non c'è conquista nella nostra vita, dove non c'è progressione. Sapete perché questo accade? Perché probabilmente ci stiamo limitando ad ascoltare, ma Dio vuole che noi abbiamo il coraggio, la forza, la determinazione di mettere in pratica. Ascolta e mette in pratica, perché chi ascolta e mette in pratica progredisce e va avanti. Quante persone vogliono andare avanti nella propria vita? Quanti vogliono conquistare? Quanti vogliono avere nuovi territori che Dio ha stabilito per la loro vita? Ascolta e metti in pratica. Sei figlio di credente, gli hai già ascoltate tante di verità, comincia a metterle in pratica. Sapete la mia conversione a cosa corrisponde? Tra le tante cose, i tanti stimoli che ho avuti, tra cui Stefano Viale che viene a me e dice, beh, oh, quando è che ti battezzi tu? Punto, e se ne va, gira lo sguardo e se ne va. E io rimango con questo interrogativo e me lo porto a casa in crisi, mi devo battezzare, devo fare questa scelta, effettivamente non l'ho mai fatta, non l'ho ancora fatta. Un altro stimolo forte che ho avuto è stata la conversione di Sara Marinelli, De Filippo all'epoca, che veniva da una vita senza il Signore. E lei, buona buona, si inserisce nella chiesa con i suoi genitori e io vedo che lei fa dei passi giganteschi. Vive un Dio concreto, pratico, e sa meno della metà delle cose che so io, facendo nascere in me una santa gelosia. E dice, ma com'è che questa ragazza riesce a parlare con così tanto vigore, zelo, radicalità, bellezza, forza, determinazione, e lascia i suoi amici vecchi, e lascia la sua vita vecchia, e intraprende un percorso così bello, e la vedo gioiosa. Forse qualcosa non sta funzionando nella mia vita. Sapete cosa non funzionava nella mia vita, in quella stagione in modo particolare? Che conoscevo la parola, ma non la mettevo in pratica. Io potrei concludere qui il mio messaggio questa mattina, un po' facendo come Stefano ha fatto, lanciandovi una bomba e mandandovi a casa. Perché di fatto è proprio quello che è necessario fare. Se ci riuniamo ogni domenica e proponiamo sermoni sempre nuovi, sempre belli, freschi, la novità del momento, il passo che ancora non hai letto, il versetto che non conosci, è bello, è stimolante, ti dà la possibilità di spingerti in avanti. Ma facciamo un errore grande, anche proprio come Chiesa. Facciamo l'errore di vivere nell'ipocrisia. Possiamo cadere nell'errore di vivere l'ipocrisia, dove la nostra mente si ingigantisce e diventa sempre più grande, e diventiamo mostruosi. Questo io dico dei figli dei credenti, hanno la possibilità di essere dei mostri, cioè hanno la testa enorme e il corpo gracile, senza capacità di forza alcuna. Questo ero io. Un ragazzo che aveva la testa carica, piena di nozioni, piena di verità, e sapevo dove si trovavano certi versi, potevo citare a memoria certi versi, e la testa era grande, enorme, pesante, ma il corpo gracile, mostruoso, piccolo, insignificante, incapace di fare passi perché aveva muscoli atrofizzati e mai utilizzati. Il Signore vuole che noi abbiamo nozioni, vuole darci informazioni e vuole che noi ascoltiamo. Infatti Giacomo non dice non ascoltate, mettete in pratica ora, basta, no. Dice ascoltate, continuate ad ascoltare, leggi la parola, è come guardare uno specchio, dice. Ma se non contempli la parola, non la guardi attentamente, dice Giacomo, non potrai metterla in pratica. Ora, di fatto, la cosa bella che dice Giacomo è che chi dice questo, chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Giacomo sta dicendo, se tu ti fermi e contempli e guardi, e ovvero leggi e rileggi e rifletti, e mediti e poi ti confronti con altri per studiare, approfondire, inevitabilmente non puoi fare a meno che far nascere in te una forza interiore che ti spinge all'azione. Amen, dice la parola di Dio, ma lo dice non affinché sappiamo che dobbiamo amare, ma affinché la pratica della nostra vita quotidiana sia incentrata sull'amore. L'amore per il prossimo, l'amore per Dio. Arrenditi, dice la parola, ma non affinché possiamo sapere che la resa è la strada giusta e magari insegnarla ad altri, ma affinché la possiamo mettere in pratica. La Bibbia è piena di questo insegnamento, di ascoltare e mettere in pratica. Forse alcuni di voi, proprio perché avete ascoltato abbastanza la parola, già avete pensato e state pensando agli altri spunti nella parola di Dio dove troviamo questo invito ad ascoltare e mettere in pratica. Forse alcuni di voi stanno pensando proprio alle istruzioni che Gesù ha dato, al Sermone sul Monte che conclude dicendo che l'uomo stolto è colui che ascolta la parola ma non la mette in pratica, ed è come un uomo che costruisce la casa sulla sabbia e poi quando viene il vento e quando viene l'intemperia quella casa crolla. Ma il saggio chi è? Colui che ascolta queste parole e le mette in pratica. Oppure ti viene in mente quest'altra storia, una parabola, la voglio leggere, dei due fratelli, che si trova in Matteo capitolo 21, e dice così: che ve ne pare, Gesù che parla, che ve ne pare, un uomo aveva due figli. Avvicinatosi al primo disse: figliolo, va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi, pentitosi, vi andò. Avvicinatosi all'altro, disse la stessa cosa. Egli rispose: vado, signore. Ma non vi andò. Quali dei due fece la volontà del padre, dice Gesù? Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero: il primo. E Gesù allora: Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Sta condannando i religiosi, sta condannando coloro che conoscevano la parola, coloro che conoscevano la legge, coloro che conoscevano la volontà di Dio. E li mette in ridicolo davanti a coloro che peccatori in una vita dissoluta, in una vita di mancanza di integrità, dove hanno abbandonato Dio con ogni forma e con ogni azione sbagliata, prostitute e pubblicani, imbroglioni, erano i mafiosi dell'epoca. Pubblicani e prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non li avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute li hanno creduto e voi che avete visto questo non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui. Gesù vuole che noi siamo paradossalmente come i pubblicani e le prostitute che lo ascoltavano Giovanni e mettevano in pratica, lasciavano la vecchia vita, perché si rendevano conto che avevano bisogno di Gesù e non sapevano tutto su Dio, sulla legge, sui profeti, non erano degli insegnanti, non erano delle persone con una grande testa, però esercitavano bene le gambe e mettevano tutto in moto i loro muscoli. Allora il mio insegnamento questa mattina, stimolo, il mio incoraggiamento e se volete anche la mia riprensione questa mattina è: metti in pratica la parola, quello che Dio ti sta dicendo di fare, fallo, senza se e senza ma. In casa nostra noi abbiamo tante piante, sapete, ci piacciono le piante, a me e a Giorgia piacciono le piante, quindi il soggiorno è pieno di piante, abbiamo un soggiorno luminoso e la nostra piccola ora cammina e si sposta ovunque, no? E non so se avete notato, però i bambini piccoli amano le piante. Però li amano un po' diversamente da come li amiamo io e Giorgia, no? Da come li amiamo noi adulti, perché noi nell'amore li annaffiamo, le curiamo. Loro esprimono il loro amore in una maniera molto diversa, strappando, tirando, facendo, mettendo mani nella terra, no? E quindi stiamo insegnando a nostra figlia a non toccare le piante. E se andate da mia figlia Ioanna e domandate, dite: Ioanna, si toccano le piante? Lei vi guarderà con gli occhi sbarrati, gli occhioni suoi meravigliosi, dolci, e col suo ditino fermo e sicuro farà così. Non sa ancora parlare Ioanna, non saprebbe dire no, ma fa così. Il fatto è che con una mano fa no e con l'altra continua a strappare foglie. E io la vedo e dico: eccomi, ecco l'ipocrisia. Si fa? Grazie Fabio per quello che ci hai fatto fare durante la lode. Penso sia stato guidato molto dallo Spirito Santo. Così autentico, così sincero. Noi vogliamo essere una chiesa sincera, autentica. Amen. Noi diciamo no a ogni forma di ipocrisia. Noi vogliamo essere autentici, sinceri. E l'autenticità nostra sta nell'ammettere le nostre colpe, i nostri errori. Non fingere di sapere, fingere di fare, ma sapere e poi fare, nel momento in cui non facciamo, ammettere, chiedere perdono e riallinearci alla volontà di Dio, perché è la cosa migliore per noi. Amen. Che cosa Dio ti sta chiedendo di fare? Perché Lui parla. E non devo essere io questa mattina a ricordarti qualche indicazione che il Signore vuole darti, qualche istruzione. Tu lo sai. E se non lo sai, basta che ti fermi un attimo in preghiera e ascolti e leggi la parola di Dio. E saprai immediatamente che cosa Dio ti chiede di fare. Che cosa Dio ti sta chiedendo di fare? oggi, in questo periodo, che cosa ti sta chiedendo di fare? Fallo. Fallo, vai avanti. Conquista. C'è il meglio davanti a te. Confessa i tuoi peccati. Confessa le tue mancanze. E di' Signore, so cosa devo fare. So cosa devo fare. Voglio ubbidire. Oggi è la domenica di Pentecoste. Non posso evitare di leggere quello che c'è scritto in Atti 1, versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Mi sarete testimoni. Vivrete una vita di testimonianza. Vivrete una vita che parla di Cristo. Sarete abilitati a vivere una vita potenziata dallo Spirito Santo in una maniera soprannaturale per camminare non più come camminavate prima, ma camminare in novità di vita, in piena forza per essere una luce in un mondo di tenebre. In questo mondo di tenebre tu puoi essere la testimonianza di un Dio vivente che vive dentro di te, e questo mediante lo Spirito Santo, è la promessa di Dio. E tutto ciò che puoi fare per una promessa di Dio e un dono di Dio, quale quello dello Spirito Santo, è riceverlo. E forse questa è la cosa che il Signore ti sta chiedendo di fare. Non ascoltare solo questo verso. Mettilo in pratica. Come si mette in pratica il ricevere lo Spirito Santo? Sapete cosa hanno fatto i discepoli dopo questa istruzione di Gesù? Si sono fermati e hanno pregato. Hanno pregato non un giorno. Hanno pregato e si sono fermati non per 2 giorni e non per 3 giorni. Hanno continuato a pregare per 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni, senza cessare. Hanno continuato a pregare per 8 giorni, per 9 giorni. Hanno pregato costantemente. Non è che lo Spirito Santo è piombato su di loro nell'istante stesso che Gesù ha confessato queste parole, ma loro hanno dovuto ubbidire, si sono dovuti fermare, hanno dovuto attendere, e attendere in una maniera non passiva ma attiva, in preghiera. E nella loro attesa attiva in preghiera, il 10° giorno, sono stati investiti dallo Spirito Santo. Il Signore ti sta chiedendo di attendere le sue promesse, ma non in maniera passiva, ma attiva. Attendi l'adempimento delle sue promesse nella tua vita in maniera attiva. Non ascoltare solamente le giuste istruzioni sulla preghiera, ma metti in pratica la preghiera. Sii un uomo di preghiera, sii una donna di preghiera, sii un uomo della parola, sii una donna della parola. Ascolta e metti in pratica, ascolta e metti in pratica. Amen. Vogliamo alzarci, voglio invitare il gruppo Lode. Vogliamo fare delle scelte. Questa mattina vogliamo chiudere i nostri occhi nella consapevolezza che Dio è presente in questo luogo ed è Lui che con tanto amore, perché è un padre buono e corregge i figli che ama, Lui ci sta scuotendo e sta dicendo: io voglio felicità per la tua vita, io voglio vita abbondante per te, io voglio che tu possa guardarti indietro ed essere orgoglioso di un santo vanto di quello che hai vissuto e di quello che vivi, perché non ti limiti ad ascoltare ma metti in pratica, ti metti in gioco e rischi e ti sacrifichi e sgomiti contro ogni dubbio, ogni pensiero che ti vuole bloccare, avanzi e metti in moto quei muscoli. Che forse si sono atrofizzati. Io voglio pregare prima di tutto per tutti coloro che sanno già quello che lo Spirito Santo ha voluto dire questa mattina. Che sanno già esattamente che cosa il Signore ha voluto sottolineare questa mattina nella tua vita. Qual è l'istruzione, l'indicazione, l'obiettivo? Un obiettivo che forse ti fa perdere d'animo. Un obiettivo che è sempre lì e non riesci, e non riesci, e ti scoraggi, e guardi oltre, e guardi altrove, ma il Signore dice no, è quello l'obiettivo, vai, è quella la conquista, vai, è quello ciò che devi fare. Non ti stancare, perché io non mi stanco di invitarti ancora una volta, e ancora una volta, e ancora una volta per seguire quell'obiettivo. Se sai quello che lo Spirito Santo ti sta chiedendo di fare in questo periodo, ti chiedo di alzare le tue mani, voglio pregare per tutti coloro che già sanno. Grazie Gesù, perché sei vivo e parli. Grazie per le indicazioni che stai dando alle nostre vite, e grazie perché in ogni indicazione, in ogni ordine, in ogni comandamento possiamo arrenderci a te e chiedere lo Spirito Santo. E io voglio pregare lo Spirito Santo su tutti coloro che hanno un'istruzione, un'indicazione chiara che devono perseguire, che sanno che devono perseguire in questo tempo, che tu possa dare a loro la forza della perseveranza, la forza di rimettersi in atto, in gioco, la forza di rialzarsi e camminare in quella direzione, mobilitare i muscoli. Io prego per questi tuoi figli e queste tue figlie che tanto ami, che inviti a conquistare altri territori. Gesù, se c'è scoraggiamento, se c'è stata delusione, se c'è stato un provarci e un demoralizzarsi perché non si è riusciti, io prego la tua consolazione, il tuo incoraggiamento in questo momento. Io confesso le parole che tu hai detto in Giovanni 15, che senza di te non possiamo far nulla. Io le confesso vere per ognuna di queste mani che si è alzata e per ognuna di queste persone. Senza di te noi ammettiamo che non possiamo fare nulla. Ma siamo qui perché dipendiamo da te e sappiamo che ci sei e che con te possiamo riuscirci benissimo, Padre. Io prego uno spirito nuovo nei cuori di chi è demoralizzato, una mente rinfrescata, una positività, una motivazione non carnale, non umana, ma soprannaturale, una fede, Padre, irrompente, una fede che rompe, che taglia con ogni dubbio, con ogni incertezza, e che rimpiazza le voci bugiarde con la verità che possiamo riuscirci benissimo, e che se la tua istruzione è questa, noi possiamo riuscirci con te. Alleluia. Amen, amen. Grazie Padre. Alleluia. Voglio pregare per chi è pronto a ricevere nuove istruzioni. Non alzare leggermente le tue mani, cioè non alzare con leggerezza. Mentre abbiamo ancora i nostri occhi chiusi e siamo in un'attitudine di preghiera davanti a Dio, se di vero cuore e sinceramente vuoi avere una nuova istruzione, una nuova indicazione da Dio, non sai cosa devi fare e sei disposto ad ascoltare, sei disposto ad umiliarti e a dire in partenza io farò qualsiasi cosa il Signore mi chiede di fare, io voglio pregare per te. Ma cerca questi presupposti prima. Non ingannare te stesso, non ingannare Dio in questa scelta. Prima e più di tutto devi essere disposto ad arrenderti, a sottometterti e ad ubbidire. Se vuoi nuove istruzioni, se vuoi nuove indicazioni, se vuoi nuovi traguardi, nuove tappe da conquistare, allora ti chiedo di alzare le tue mani, voglio pregare per tutti coloro che sono in attesa di risposte e di indicazioni. Grazie Gesù. Alleluia, grazie Gesù. Grazie Padre perché possiamo essere sinceri, reali, concreti. La nostra fede ci porta a credere senza ombra di dubbio che tu sei il Dio che parla, perché non sei rimasto morto, sei risorto, sei vivo oggi e parli ancora e indichi la strada ai tuoi figli, a coloro che la vogliono seguire. Io ti ringrazio per queste mani di arresa. Ti ringrazio per chi vuole nuove indicazioni da parte tua, e grazie perché nelle nuove indicazioni che tu darai ai tuoi figli ci sono nuovi territori, c'è nuova conquista, c'è cambiamento, c'è un lasciarsi dietro tristezze e dolori, c'è un afferrare gloria e bellezza e colori e vittorie e creatività. Io prego questo, Signore, nuove indicazioni. Nel nome di Cristo Gesù, Spirito Santo, tu sei colui che parla ai nostri cuori. Vuoi tu parlare ai cuori dei tuoi figli a partire da questa mattina per dare nuove indicazioni, nuovi percorsi, tracciare i nuovi passi da intraprendere. Vuoi tu essere quella nuvola che si eleva di giorno e quella colonna di fuoco che si eleva di notte per segnare il percorso da seguire, come hai fatto per il popolo di Israele. Tu lo vuoi fare ancora oggi per noi, e io benedico e prego per le persone che si stanno arrendendo a te e vogliono nuove indicazioni e istruzioni. Grazie Gesù. Alleluia. È bello essere tuoi discepoli, è bello sottometterci a te, rinunciare a tutto e fare la tua volontà. Vorrei pregare ancora per un gruppo di persone che è qui certamente questa mattina e non hai arreso il tuo cuore a Dio, non vivi con Dio, per Dio, vivi una vita autonoma, indipendente, vivi seguendo le tue decisioni, forse inconsapevolmente, ma sei influenzato dalla società che ti circonda e segui la massa, segui molti. Il Signore ti ha portato in questo luogo per dirti: vieni a far parte della minoranza, vieni a far parte di coloro che afferrano la vita abbondante. Vieni e seguimi, dice Gesù questa mattina a te, al tuo cuore. E lo sai perché lo senti bussare al tuo cuore, senti a livello proprio emotivo qualcosa che questa mattina ti ha toccato, ti ha fatto sentire diverso, e quella è la presenza dello Spirito Santo ed è l'accoglienza di Dio, ed è Lui che ti accoglie questa mattina e ti dice: io ho da darti una vita gioiosa, della gioia vera, non temporanea, non passeggera, non esperienziale o circostanziale, ma una gioia profonda che potrai trovare sempre, perché io sono la tua fonte di gioia, io voglio essere la tua fonte di gioia. E in Apocalisse 3 versetto 20 c'è scritto che Gesù è alla porta e bussa, e a coloro che aprono Lui entrerà e cenerà. E la cena è questo momento conviviale, di intimità profonda, di familiarità. Il Signore dice: io voglio essere nel tuo cuore, voglio essere intimo con te, voglio cenare con te, ma io mi limito a bussare al tuo cuore. Lui sta bussando al tuo cuore questa mattina. A te è dato di aprire la porta, è una scelta libera, nessuno ti costringe a farla. Il Signore ti ha portato qui, ti ha dato la possibilità di essere in questo luogo per fare questa scelta. Allora, mentre chiudiamo i nostri occhi, se non li abbiamo ancora chiusi, voglio invitare tutti coloro che dicono: io voglio aprire il mio cuore a Gesù, io voglio la felicità che Dio promette di darmi, io voglio lasciarmi alle spalle la vita in autonomia che ho vissuto, e accolgo Gesù quale guida della mia vita e arrendo a Lui le mie giornate, il mio futuro. Se questa è la tua scelta, alza ora la tua mano dove ti trovi. Voglio pregare per tutti coloro che alzeranno la mano ora. Grazie, grazie. Alleluia, vedo diverse mani che si stanno alzando e ti ringrazio Dio. Alleluia, c'è qualcun altro che dice è una scelta tua, è una scelta libera, ma è una scelta importante. E non pensare a chi ti sta attorno, perché è quella mentalità che ti sta facendo vivere una vita allo sbaraglio, sempre a pensare a quello che gli altri dicono o quello che penseranno o come mi giudicheranno. Lascia stare questo, scegli tu per te stesso secondo quello che è l'indicazione che lo Spirito Santo ti sta dando questa mattina. C'è qualcun altro che dice io scelgo Gesù, voglio scegliere Gesù, voglio aprire il mio cuore a Lui. Alleluia, voglio pregare per tutti coloro che hanno alzato la loro mano, la puoi abbassare ora. Vogliamo ripetere insieme questa preghiera, in modo particolare tu che hai alzato la mano, ripeti con me questa preghiera, ma lo facciamo insieme Chiesa, per accompagnare queste persone nella scelta e nella preghiera che stanno facendo di arresa a Cristo Gesù. Ripetete dopo di me, Signore Gesù, ti invito nel mio cuore, perdona i miei peccati, perdona la mia vita in autonomia, io voglio seguire te. Voglio arrendere tutto a te, voglio sottomettermi a te e voglio che tu possa prendere la mia vita e farne una cosa nuova. Amen, amen, alleluia Gesù, grazie, alleluia. Stiamo ancora alla presenza di Dio. Sia rotta ogni ipocrisia nel nome di Gesù. Confessiamo che c'è, sappiamo che c'è, in questo momento nel nome di Gesù prendiamo le distanze da questo modo di vivere religioso, rompiamo ogni ipocrisia nel nome di Gesù, vogliamo essere veri, autentici, sinceri, discepoli tuoi, seguaci tuoi, Signore. Amen, Chiesa? Amen, alleluia. Adoriamo il Signore.